Letture di Radio 24. Una canzone quasi dimenticata, il nuovo romanzo della scrittrice inglese Catherine Webb, si svolge su due piani narrativi. Quello presente, nel quale Zack, un gallerista d'arte, sta scrivendo un romanzo su Charles Aubry, pittore molto noto agli inizi del secolo scorso, e quello che riguarda il passato del pittore, sul quale aleggia un terribile mistero. Zack possiede alcuni dipinti di Aubry ed è particolarmente colpito da un quadro che ritrae una ragazzina e intenta raccogliere delle erbe. C'è qualcosa di inquietante in questo dipinto, che lo spinge a indagare su quello che era successo negli ultimi anni di vita del pittore. Zack si reca quindi a Blacknoll, nel Dorset, dove le sue ricerche gli permettono di rintracciare Mizzi Hatcher, la ragazzina ritratta nel quadro, che oggi è un'anziana signora. Volevo chiederle se lei si ricorda di Aubry, se potesse dirmi qualcosa di lui, precisò Zack. La donna rimase quasi pietrificata, ma poi, gradualmente, schiuse un poco le labbra. E Zack la sentì prendere fiato, un lungo respiro irregolare, come se annaspasse al rallentatore. «Se mi ricordo di lui», sussurrò. E Zack stava per rispondere quando si accorse che se l'avesse fatto, lei non l'avrebbe udito. Il suo sguardo era scivolato lontano, sfocato. «Sa che dovevamo sposarci?» disse alzando gli occhi e abbozzando un sorriso. «Davvero?» dice sul serio, esclamò Zack, cercando di collocare questo nuovo elemento nel quadro di ciò che sapeva della vita di Aubry. «Oh sì, mi adorava, e io adoravo lui. Era un grande amore il nostro, come quello di Romeo e Giulietta, ma reale. Oh, se era reale», disse lei con trasporto. Zack sorrise, vedendo la luce che le brillava negli occhi. «Beh, questo è meraviglioso. Sono molto felice di aver incontrato qualcuno che lo ricorda con tanto affetto. Sarebbe disposta a raccontarmi qualcosa in più al riguardo, su di lui? Si sieda», disse Miss Hatcher, pronunciando le S con un suono aspro. «Grazie». Zack scelse una sedia accanto alla finestra. Sul davanzale c'era un gatto rossiccio, piccolo e magro, che dormiva profondamente con un filo di bava che gli usciva dalla bocca. Ora Zack era finalmente in casa e Miss Hatcher sembrava desiderosa di compiacerlo e di parlare. Stava seduta sul bordo della sedia con le mani appoggiate sopra le ginocchia unite, come una bambina. 1939. Allora avrò avuto 16 anni. 16 anni, che meraviglia, disse con un sorriso, alzando gli occhi al soffitto pieno di crepe. Zack fece qualche rapido calcolo, quindi lei ora aveva 87 anni. Notò una leggera lanugine sulla sua guancia mentre teneva il mento sollevato. «Com'era Aubry?» chiese Zack. «Com'era? Non ci sono parole per spiegarlo. Per me era come il primo giorno tiepido di primavera. Significava più di qualsiasi altra cosa». Il sorriso deliziato scomparve dal suo viso e fu sostituito dall'ombra della perdita. «Quella era la terza estate che venivano, il mio Charles e le sue figlie. Li avevo conosciuti 2 anni prima, quando ero poco più di una bambina. Mi disegnava continuamente, sa? Gli piaceva ritrarmi». Zack avvertì una sconvolgente sensazione di déjà vu, un sussulto del corpo. «Io conosco il suo viso», disse distinto. L'anziana signora lo guardò e l'ombra di un sorriso addolcì la sua espressione. «Forse dovrebbe», disse lei. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Catherine Webb, Una canzone quasi dimenticata. Mondadori, 418 pagine, 16 euro. Letture di Radio 24. L'opinione pubblica occidentale è sempre in prima fila quando si tratta di attaccare Israele, ma si mostra quasi indifferente verso le atrocità del califfato islamico. Sono gli ultimi danni ideologici del terzo mondismo, come scrive Sofia Ventura in un articolo pubblicato sull'ultimo numero del magazine Il. Nelle settimane del conflitto tra Israele e Hamas, a migliaia sono scesi nelle strade delle capitali europee per manifestare contro Israele. Allo strabismo che connota lo sguardo delle opinioni pubbliche occidentali sulle vicende che riguardano Israele, sono state dedicate diverse pagine nello scorso numero di questa rivista, dove si è posto l'accento sulla permanenza nelle nostre società di un sentimento antisemita. Per comprendere quel pregiudizio, tuttavia, vi è un altro utile tassello da inserire nel mosaico degli umori delle nostre pubbliche opinioni. Un tassello che ci dice qualcosa anche sul perché tanti orrori, che pure arrivano nelle nostre case attraverso la televisione e la rete, non destino mobilitazione e passione. Restando alla storia recente e all'oggi, le carneficine, le pratiche repressive e terroristiche attuate dalle autorità politiche di paesi del Medio Oriente contro i loro stessi cittadini, così come il mostruoso dominio che i militanti del califfato stanno costruendo, sembrano lasciare pressoché indifferenti i mobilitati permanenti contro gli Stati Uniti e Israele. Quel tassello è il lascito del terzo mondismo. Il terzo mondismo è un'ideologia manichea che divide il mondo in una parte buona e una cattiva, e per la quale naturalmente europei e americani interpretano la parte dei cattivi. Il terzo mondismo appiattisce le nazioni occidentali sulle pagine più discutibili e tragiche della loro storia, come lo schiavismo e il colonialismo, e interpreta le fasi successive come evoluzioni del peccato originale di dominio e sfruttamento di altri popoli, sulla scorta della vulgata del famoso pamphlet di Lenin, l'imperialismo come fase suprema del capitalismo. Esso ignora, sottovaluta e svilisce il pensiero e le realizzazioni occidentali sul piano della costruzione di regimi altamente imperfetti, le democrazie liberali, ma che hanno posto al centro i diritti dell'individuo, il suo diritto all'autorealizzazione, il suo benessere. Al tempo stesso, assolve a priori i paesi un tempo definiti del terzo mondo, e in special modo i loro governanti, da qualunque responsabilità o colpa. Così Israele è comunque sempre dalla parte del torto, anche perché viene iscritto all'universo dell'Occidente. Specularmente, gli orrori di Hamas vengono sottovalutati e ridimensionati, perché in fondo si tratta di vittime dell'imperialismo occidentale, espresso in quel caso dallo Stato ebraico. Di fronte agli orrori degli islamisti si insegue sempre qualche forma di giustificazione, come l'umiliazione, la povertà, lo spossessamento, che naturalmente hanno a monte la causa della volontà di dominio economico, finanziario, politico e militare del malvagio Occidente. E se lo sdegno verso certe barbarie è unanime, come di fronte ai video delle decapitazioni di giornalisti occidentali, esso si manifesta soltanto quando le atrocità esplodono davanti ai nostri occhi, e comunque rimane uno sdegno freddo, incapace di mobilitare passioni. Si spiega in questo modo la sostanziale indifferenza verso la negazione di diritti umani, civili e politici, da noi considerati fondamentali, in paesi che hanno però il merito di essere o essere stati, in qualche forma, vittime del cosiddetto imperialismo occidentale. In questo caso, le donne lapidate o gli omosessuali che penzolano dalle gru iraniane non meritano nemmeno un millesimo dell'attenzione delle vittime dei bombardamenti israeliani, così come in passato scarsissima attenzione hanno ottenuto le vittime di regimi latinoamericani, asiatici e africani più o meno feroci, alcuni ferocissimi, si pensi al totalitarismo cambogiano, tutte variazioni dell'ideologia antiimperialista. C'è dunque una pregiudiziale bontà attribuita all'altro solo perché altro, e qui si nota un inconscio atteggiamento razzista che richiama l'idea del buon selvaggio. Ma è anche palese l'inconsapevolezza di ciò che si è, di ciò che l'Occidente rappresenta in termini di progresso, benessere e libertà. Inconsapevole, vergognandosi di sé, l'Europa balbetta, mentre il mondo è in eruzione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Sofia Ventura, Gli ultimi danni ideologici del terzo mondismo, dal numero di ottobre del magazine Il. Entrando in un negozio di antiquariato, la celebre pianista Hélène Grimaud trova un manoscritto di Karl Wirth, uno degli pseudonimi usati da Brahms. Oltre ad alcuni spartiti, ci sono pagine di prosa nelle quali il compositore tedesco racconta di un viaggio nell'isola nordica di Rügen. Leggendo questo racconto, dove si parla anche dell'incontro con un lupo, la Grimaud trova un parallelo con la propria esperienza, che l'aveva portata negli anni passati a creare un rifugio per i lupi a Salem, nel Massachusetts, dove la pianista di origine francese aveva vissuto per diversi anni prima di trasferirsi in Svizzera. In queste righe, la Grimaud spiega come leggendo queste pagine inedite di Brahms sia maturata in lei la convinzione di tornare a Salem, per riprendere ad occuparsi attivamente della salvaguardia dei lupi.